un'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, sono 6 minuti dopo le 12, eccoci qua in diretta con l'altra Europa, il nostro appuntamento settimanale dedicato al racconto dell'Europa, delle storie, delle persone, delle opportunità e delle possibilità. Le coordinate per trovarci anche sui network, euronetplus.eu è il sito del network al quale apparteniamo di radio europee, sui social euronetplusr24 oppure @ Federico Taddia, il mio account personale, però radio24.it rimane il punto di smistamento principale, lì potete riascoltare le puntate, lì potete trovare i nostri europost-it tra i contributi extra della pagina dell'altra Europa. Ogni settimana un viaggio, ogni settimana tante dritte, tante coordinate. Oggi parliamo dall'Italia, partiamo dall'Italia e partiamo da una scuola molto particolare, la scuola di Open Coesione. Principi di cittadinanza consapevole attraverso attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici e l'impiego di tecnologie di informazione e comunicazione a partire dagli open data, i dati aperti pubblicati sul portale di Open Coesione. Questa è la scuola di Open Coesione, questa è questa attività che porta i ragazzi e le ragazze a capire come dai dati si possa fare informazione, come dai dati si possa fare monitoraggio civico, cioè partecipazione diretta al controllo anche di quello che succede nell'amministrazione. A scuola di Open Coesione oggi ne parliamo perché il 29 aprile sono stati presentati 3 progetti che hanno coinvolto oltre 60 ragazzi che hanno partecipato appunto a questo percorso e in particolare hanno monitorato l'utilizzo di fondi europei per capire appunto con questi soldi cos'era stato realizzato. Do il benvenuto a Marco Moggi, studente di terza dell'Istituto Superiore Bertarelli Ferraris di Milano. Ciao Marco. Buongiorno, buongiorno Federico. Ciao, benvenuto. E poi insieme Grazie. A te c'è anche, aspetta che mi sono perso coi nomi, c'è Riccardo, Riccardo La Rocca. Ciao Riccardo. Ciao. Ciao, di che scuola sei? Che ti ho perso? Mosi Bianchi di Monza. Eccolo lì, ciao, benvenuto anche a te. Eccolo, te avevo perso, scusa. Studente della classe 4P indirizzo Sistemi Informativi Aziendali dell'Istituto Superiore Mosi Bianchi di Monza. Riccardo, partiamo da te. Cosa avete combinato? Noi abbiamo scelto di monitorare i lavori di restauro della Villa Reale di Monza. Sì. In quanto crediamo sia un bene con un interesse storico-culturale inestimabile e ognuno dovrebbe visitarla e conoscere la sua storia. Ok, quindi avete appunto avete indagato questo progetto che avete chiamato in Mos Villa, lo strano caso della Villa Reale. Sì. Come avete operato? Allora, inizialmente abbiamo ricercato i dati secondari, quindi dati che qualcuno aveva già cercato e pubblicato online. Ecco, quando parliamo di dati, cosa intendiamo? Numeri, soldi, date, che dati tutto, sono? Tutto, tutto. Mm-hmm. Qualsiasi cosa che riguarda la Villa Reale, ciò che ci gira intorno. Perfetto. Quindi siamo partiti dal web, appunto dal portale Open Coesione, e come prima cosa abbiamo visto quanti soldi sono stati spesi per questo restauro. Mm-hmm. L'ammontare complessivo è di 20 milioni di euro, dei quali 12 li ha forniti l'Europa. Okay. È una bella cifra. È una bella cifra, infatti tu sei uno studente delle scuole superiori, insomma avete maneggiato cifre importanti, no? Sulla carta almeno. Sì, sì. E cosa avete capito di questo flusso di denaro? Abbiamo capito appunto l'utilità di queste politiche di coesione, cosa sono e la loro effettiva applicazione. Mm-hmm. Quindi abbiamo capito che l'Europa esiste, ne facciamo parte e aiuta i suoi paesi membri. Ok, quindi avete colto anche trasparenza, nel senso che viene ben spiegato o comunque ci sono gli strumenti per capire questi soldi come vengono utilizzati? Sì, esattamente. La trasparenza è una cosa molto importante quando parliamo di pubblica amministrazione. E in internet abbiamo trovato praticamente quasi tutto. Mm-hmm. E Marco, voi avete fatto un progetto simile, però su un oggetto di studio diverso. Cosa? Esattamente, noi abbiamo trattato un video sul canale scormatore di Nord-Ovest, dato che abbiamo preso in considerazione che ci sono state parecchie lamentele tra i cittadini e gli enti statali, ossia i cittadini sono sempre stati contrari a questa formazione del canale e noi ci siamo raccolti a scuola per sapere effettivamente anche chi dei due avesse avuto ragione. Ok, anche lì avete utilizzato dati disponibili in rete e non solo. Come si maneggiano poi questi dati? Cosa avete capito? Nel senso che una prima parte è sicuramente avere le istruzioni sul dove trovarli, sul come cercarli. Poi una volta che si sono individuati? Assolutamente sì, ci siamo trovati come gruppo, abbiamo imparato appunto ad usare gli open data, che sono, come diceva lei, informazioni aperte. Noi le abbiamo fatto dei database dove abbiamo raccolto tutte queste informazioni e le abbiamo confrontate e poi siamo stati accolti in regione all'AIPO, sì, per delle interviste sul campo, anche proprio dove veniva fatto il canale, e abbiamo cercato di capire questi soldi se erano stati spesi bene e i cittadini se era tutto chiaro. Certo. Marco, qual era l'approccio? Cioè, vi sentivate studenti, vi sentivate cittadini curiosi, vi sentivate giornalisti? Qual era l'approccio, esatto, che vi ha spinto? La cosa molto bella è stato che appunto ci siamo sentiti poco studenti e molto più giornalisti. Mm-hmm. Abbiamo preso la cosa molto sul serio, infatti abbiamo operato proprio su tutto il campo, dando il 100% di noi. Ok. 86 le scuole italiane coinvolte in questo progetto, supportati anche da 29 centri Europe Direct che appunto hanno dato una mano ai ragazzi. E Marco, cosa hai capito tu dell'Europa dopo questo lavoro? Allora, noi abbiamo capito dalla fine del progetto che c'è stata una mancata comunicazione tra gli enti e i cittadini, quindi che ognuna delle due parti alla fine deve imparare ad ascoltare e a comunicare tra di loro. Certo. I soldi successivamente abbiamo in realtà scoperto che non sono ancora stati spesi tutti, ma sembra che comunque i lavori abbiano preso un giusto avvio. Ok, thebeerteam.wordpress.com è il sito web dove poter seguire e vivere il vostro progetto, mentre quello di Riccardo, se non erro, è mosvillaopencoesione.altervista.org, giusto Riccardo? Esatto. Perfetto, grazie davvero, complimenti a voi, complimenti alle ragazze e ai ragazzi che con voi hanno lavorato. Credo ci sia stato anche un aiuto dai prof, quindi insomma complimenti anche a loro, perché vuol dire mettersi in gioco. Questa è la scuola che ci piace. Ciao Marco, ciao Riccardo, buona giornata. Ciao, grazie. Buona giornata, ciao, ciao, ciao. A tutti, ciao. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europost-it. 8 maggio 2015, nelle scuole di Milano si mangerà europeo. Venerdì 8 maggio un mosaico di gusti e colori riempirà i piatti dei bambini milanesi. Infatti, in occasione dell'inizio di Expo e della Giornata dell'Europa, in tutte le mense delle scuole milanesi sarà servito un menù speciale con 30 piatti tipici di altrettanti paesi dell'Europa. L'idea nasce dalla collaborazione tra Milano Ristorazione e la Commissione Europea e mira a sensibilizzare i cittadini più giovani sull'importanza di una nutrizione sana ed equilibrata e sull'integrazione culturale, principio fondamentale della comunità europea. Per più informazioni potete visitare il sito milanoristorazione.it. L'altra Europa. There is a place that is about to become the center of the world, a place where the history of our future is being built. It is Milan, the city of Expo 2015. For the first time ever, a single place will be the stage that will present the world's largest table, with the most important people in the world, all of us. A place where the culture of food and the sense of hospitality. Costruire il futuro dell'Europa insieme per un mondo migliore. Questo è lo slogan proposto dall'Unione Europea per il suo padiglione a Expo 2015. Radio 24 sta seguendo minuto per minuto tutto quello che è Expo, anche la parte brutta, la pagina nera di ieri, ma poi c'è anche Expo che ha aperto i cancelli ieri. 200.000 persone lo hanno visitato, hanno curiosato ciò che è già aperto, ciò che verrà aperto nei prossimi giorni. Per esempio l'8 verrà inaugurato ufficialmente il padiglione dell'Unione Europea, il 9 la festa dell'Europa, una grande giornata di cui parleremo pochissimo, ma ora entriamo ad Expo e andiamo a cercare tracce di altra Europa. Lo facciamo insieme a Laura Bettini. Ciao Laura. Ciao Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Qual è il clima del secondo giorno? Ma il clima è fantastico, prima di tutto perché non piove, quindi già questo già aiuta, niente poncio cambia oggi. Le cose completamente. Io dico che se ieri erano 200.000, adesso c'è una conferenza stampa in corso in cui ci diranno i numeri più precisi, però se ieri davvero erano 200.000, oggi sono almeno 50.000 di più. È veramente una gran folla quella che c'è oggi qui per il Cardo e il Decumano. E come dicevi tu, c'è il padiglione europeo che io speravo di potervi raccontare e invece ci fa sospirare ancora un po'. Eh sì, insomma c'è attesa, hanno scelto di inaugurare l'8, ci sarà un commissario europeo, appunto quello con delega all'Expo, poi il 9 la grande festa, e appunto quindi non essendo su questo padiglione ufficiale ti ho chiesto di andare a curiosare per vedere se questa idea di altra Europa, quindi l'Europa non ufficiale diciamo, no? Ma l'Europa magari che bussa, l'Europa dei confini, l'Europa un po' più lontana da Bruxelles si presenta in qualche modo, hai trovato qualcosa? Ho trovato il cosiddetto cluster del biomediterraneo. Ci sono 9 cluster che vogliono radunare filiere alimentari, ad esempio, o paesi che comunque hanno una vicinanza magari geografica o appunto produttiva, e in questo del biomediterraneo si trovano alcuni dei paesi che bussano, paesi che ci sono già dentro come la Grecia, che però hanno trovato in questo modo la possibilità di partecipare comunque all'Expo nonostante magari come la Grecia appunto delle difficoltà economiche temporanee, speriamo. In questo padiglione del biomediterraneo troviamo Albania, Algeria, vi li leggo precisi come sono in ordine alfabetico: Albania, Algeria, Egitto, Grecia, Libano, Malta, Montenegro, San Marino, Serbia, Tunisia, e poi World Expo Museum, che vabbè, poi sarà un'esposizione un po' di tutti quanti. Quindi è un modo, diciamo, per esserci pur essendo magari un po' più lontani, ecco, per ora. Certo. Insomma, è il bello anche di Expo, comunque, insomma, della contaminazione non solo culturale, ma anche proprio nel modo di esserci, nel modo di presentarsi. Sì, senz'altro, questa è stata una grande intuizione direi dei cluster, perché ha consentito a ben 135, credo sia il conto finale, paesi di essere presenti, quindi un record rispetto a tutte le altre edizioni di esposizioni universali. Trovare un qualcosa che leghi e che quindi consenta di fare squadra ed essere appunto partecipanti. Certo, Laura, mi dicevi che appunto il padiglione europeo verrà inaugurato l'8, però i volontari del padiglione dell'Unione Europea sono già scatenati lì. Sono scatenatissimi, sono ragazzi molto giovani. Ieri ho parlato con una ragazza romena, contentissima di essere qui. Questa è la più grande manifestazione che c'è in Italia, questa è una grandissima opportunità. Lei starà qui, mi raccontava, solo 11 giorni. In questi 11 giorni, devo dire, tampinerà come tutti gli altri visitatori, per non solo per andare al padiglione quando sarà aperto, ma per il momento per scattare foto ricordo, per distribuire materiale, per fare informazione. Io gli ho trovati veramente molto attivi. Insomma, è l'energia bella, ne abbiamo intervistati alcuni la settimana scorsa e c'erano veramente tante aspettative, tanta voglia di vivere da protagonisti queste giornate. Grazie Laura per averci dato un assaggio di Expo, ti lasciamo al lavoro. Radio 24, sei una delle voci di Radio 24 lì dai padiglioni, quindi oggi insomma sarai ben presente per farci vivere questa giornata. Ciao e buon lavoro. Grazie a tutti voi. E con i Coldplay rimaniamo in tema Expo, rimaniamo in tema Unione Europea, rimaniamo in tema Festa dell'Europa, perché la Festa dell'Europa ad Expo verrà celebrata con un grande evento, oltre 1000 persone che avranno la possibilità di dialogare, di chiacchierare con il Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz e con il Commissario Europeo Federica Mogherini. Una grande giornata per festeggiare l'Europa e abbiamo con noi Alessandro Giordani, vecchia conoscenza dell'altra Europa, che coordina questo dialogo con i cittadini. Questo tour era già stato fatto in Italia lo scorso anno, l'avevamo seguito tappa per tappa. Questo è un dialogo con i cittadini versione extra large. Con noi Alessandro Giordani, coordinatore dei dialoghi con i cittadini della DG Comunicazione della Commissione Europea. Ciao Alessandro, ben ritrovato. Ciao Federico, buona a te. Fai le cose in grande questa volta, siamo abituati a questi dialoghi con i... Sì, questa volta è più in grande, è vero, è una cosa che questa commissione ha rilanciato tantissimo. La commissione Juncker è una commissione che ha investito molto su un rapporto diretto con i cittadini e, come dici tu, sono cose che si fanno sempre più spesso, e i commissari europei, che sono un po' i ministri dell'Europa, no? I ministri del governo europeo, vanno e si aprono e vanno dai cittadini, ascoltano, vanno nelle piazze, vanno negli eventi pubblici e sono più che venire a fare grandi sermoni o grandi esplicazioni di cos'è l'Europa, i massimi sistemi, vengono ad ascoltare i cittadini. Come dici tu, in Expo sarà una cosa in grande, sarà una versione in grande. Noi abbiamo anzitutto un dialogo che noi chiamiamo interistituzionale, perché lì ci sarà Martin Schulz, che è il Presidente del Parlamento Europeo, e Federica Mogherini, che oltre a essere l'alto rappresentante, come sapete, della politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, è anche vicepresidente del governo europeo, della Commissione. Quindi avremo veramente l'Europa rappresentata ai massimi livelli. E poi l'auditorium dell'Expo ospiterà questo dialogo tra loro e un migliaio di cittadini, e vi assicuro che un migliaio è tanto, sarà un bel colpo d'occhio, e saranno anche lì in listening mode, cioè ascolteranno essenzialmente. E si parlerà di futuro dell'Europa, di futuro dell'Unione, soprattutto con i giovani, quello che, le aspettative che hanno, quello che non gli va, anche le frustrazioni che hanno rispetto a quello che l'Europa vorrebbero facesse e non riesce ancora a fare. Poi si parlerà di tematiche dell'Expo, quindi di sostenibilità essenzialmente, di quello che l'Unione Europea fa e può fare per assicurare alle generazioni future una sostenibilità nell'uso delle risorse. E lo puoi pensare in tutti i modi, l'energia, l'agricoltura, la politica industriale sostenibile, il cambiamento climatico, tutto quello che riguarda la sostenibilità nel tempo del nostro modello di società, e l'Expo si interroga anche di quello. Certo. E poi in ultimo parleremo anche con loro di politica estera, cioè di ruolo dell'Europa nel mondo. Abbiamo visto adesso con l'Ucraina, con la Libia, con i fatti del terrorismo, l'Europa ha un ruolo sempre più forte come una voce il più possibile coordinata nella scena internazionale, e ci sarà posto con Federica Mogherini, con 1000 persone, di dialogare direttamente anche di questo, quindi un'occasione veramente speciale e in grande. Insomma, è la Festa dell'Europa, è l'Expo, quindi c'è anche qualcosa di fortemente simbolico nell'organizzare questo grande evento in questa giornata e in questo luogo. Certo. Alessandro, tu ne hai seguiti veramente tantissimi di eventi simili. I cittadini hanno voglia di parlare d'Europa, di andare al di là della protesta e magari arrivare alla proposta? Guarda, ti dico la verità, sì, ma nel senso che i cittadini spesso li troviamo anche stupiti del fatto che l'Europa abbia, le istituzioni europee ormai abbiano un volto e una fisionomia di persone che possono mettersi in discussione e andare a parlare direttamente con loro. Perché, guarda, io ci tengo a dire una cosa: ormai la commissione Juncker, che è la commissione di quest'ultima commissione, è stata eletta con un programma politico, una commissione politica che si è messa in gioco su un programma politico, e come tutti i governi politici non si possono permettere solo di fare, di governare, di fare leggi, di fare direttive europee, eccetera, ma devono tenersi in contatto con la gente, cioè devono sentire la temperatura di quello che è, di come vengono digerite, percepite le azioni dell'Unione da parte della gente normale, non degli specialisti, di gente che vede, che ormai capisce che l'Europa ti tocca la vita quotidiana, ma che magari non fa le cose che tu vorresti. Allora, una commissione politica, un governo politico dell'Europa deve potersi mettere in contatto con i cittadini per sentire la temperatura nelle società. E questo che Juncker cerca di fare, ed è il motivo per cui ne faremo sempre di più con tutti i commissari. E l'Expo è un'occasione in grande, ovviamente, anche un palcoscenico internazionale col Presidente del Parlamento, eccetera. Insomma, sarà una bella giornata. L'8 l'inaugurazione del padiglione, il 9 questa prima. Il 9 alle 11. Sì. Il 9 alle 11, perfetto. Noi saremo qui in diretta, sicuramente avremo qualche collegamento collegamento con Expo per raccontare dal vivo quello che sta accadendo. Poi ricordiamo che il 9 è la festa dell'Europa con tantissime manifestazioni in tutta Europa e ovviamente in tutta Italia. Grazie Alessandro, certo. In bocca al lupo e ci vediamo. Grazie e ci sentiamo nelle prossime puntate. Adesso ci fermiamo, un Europosit che parla proprio della festa dell'Europa, la pubblicità, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europosit. Festival d'Europa 2015. Tra il 6 e il 10 maggio la città di Firenze ospita il Festival d'Europa 2015. Il programma è molto ricco e prevede 120 eventi che si svolgeranno in ben 40 location. Da Palazzo Vecchio a Palazzo Medici Riccardi, dalle murate fino all'Università di Firenze e a tantissimi altri luoghi, comprese le scuole della provincia. La terza edizione del Festival d'Europa si concentra su grandi temi europei come sviluppo e cooperazione. In linea con il tema dell'anno europeo 2015, sorveglianza e sicurezza dei cittadini europei e l'Europa nelle relazioni internazionali. Sono previste mostre, spettacoli, concerti, dibattiti, workshop, installazioni e momenti di informazione e approfondimento. La cerimonia di inaugurazione si terrà martedì 6 maggio alle 17:30 in piazza Santa Maria Novella. Per tutte le informazioni e per consultare il programma, visita il sito ufficiale della manifestazione Festival d'Europa. L'altra Europa. The sixth edition of the European Youth Week was celebrated in Brussels between the 26th of May and 2nd of June, when several events took place at the same time, not only in Brussels, but across Europe. A central focus this year was on the importance of the... Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, state ascoltando lo spot dell'edizione dello scorso anno della settimana europea della gioventù. Eh sì, perché non c'è solo la festa dell'Europa in questi giorni, ma siamo in pieno festa anche della gioventù, perché la settimana, anzi le settimane dell'Europa si sono aperte il 27 aprile, si chiuderà il tutto il 10 maggio. Questa è la settima edizione di un periodo interamente dedicato ai giovani. Molti eventi saranno organizzati a Bruxelles a livello centralizzato, tanti altri a livello regionale. Le tematiche sono quelle di liberare il potenziale dei giovani, quindi la mobilità, quindi la partecipazione, quindi l'opportunità, insomma tanti temi cari a noi dell'altra Europa, ma tanti temi cari anche all'Agenzia Giovani Nazionale, e con noi c'è Giacomo D'Arrigo. Ciao Giacomo. Ciao Federico, buongiorno a te e buongiorno a chi ci ascolta. Giacomo D'Arrigo, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, agenziagiovani.it, il sito, e lì insomma tantissime iniziative dedicate a questa settimana europea della gioventù. Qual è il significato, non solo simbolico, ma il significato reale, Giacomo, di questa settimana? Ma noi patrociniamo circa 120, più di 120 in tutta Italia, che non ha come... soltanto un messaggio simbolico, ma anche un messaggio concreto in oltre 100 luoghi, località, comuni, associazioni, gruppi di ragazzi che promuovono l'Europa e i vantaggi che loro mettono a disposizione. È anche un modo per portare in 100 posti in Italia nel concreto quella che è la dimensione continentale. Mm-hmm. Che significa non solo parlare d'Europa, ma andare a raccontare cosa l'Europa mette a disposizione per i giovani, per chi ha idee? Forse idea è la parola chiave che avete scelto per questa settima settimana dei giovani, giusto? Sì, significa appunto raccontare un'Europa che è diversa da quella che spesso si ascolta nei VG la sera, quando si parla di spread, di vincoli e di limiti, ma è un'Europa più legata alle occasioni, agli strumenti, alle risorse economiche, alle possibilità, e quindi si tratta di fare questo, portare nel concreto la dimensione continentale legata a fatti abbastanza importanti che impattano nelle comunità territoriali. Certo. Giacomo, ci sarà una o due giorni tutto, molto... dimmi. Il tutto legato alle idee, alle proposte che vengono dai giovani e più giovani. Mm-hmm, che voi avete raccolto, avete selezionato, esatto. Avete sollecitato. Sì. Cosa succederà il 7 e l'8 maggio a Roma? Ma il 7 e l'8 maggio alla Pelanda ci sarà l'evento conclusivo della settimana europea della gioventù a livello nazionale, ed è un evento conclusivo perché c'è un percorso già avviato da diverse settimane che sta coinvolgendo oltre 200 ragazzi tra amministratori sotto i 35 anni e associazioni, e singoli che stanno lavorando già oggi, già in queste settimane appunto, a dei progetti e delle iniziative che verranno a Roma presentati e premiati. E ricordiamo quindi il 7 maggio ci sarà l'apertura, ci sarà l'intervento di Massimiliano Rosolini e Valerio Aspromonte, quindi testimonial anche del mondo dello sport. Si parlerà di servizio volontario europeo come esempio di impegno giovanile. Che valore sta prendendo il servizio volontario europeo, Giacomo? Perché si sta puntando molto, vero, su questa idea di impegno reale, di impegno concreto. Sì, riguardo al 7 all'8 appunto ci saranno ospiti di dimensione nazionale, gli olimpioni, giornalisti, istituzioni, rappresentanti del mondo dell'impresa, insomma una serie di soggetti che animeranno con noi queste due giorni. All'interno di questi due giorni ci sarà anche lo spazio per lo SVE, che è il servizio volontario europeo e che sta avendo sempre più una forza di impatto molto, molto forte. Per noi è un'occasione importante e sta nella dimensione del semestre europeo promosso dall'Italia, mm-hmm, con il Premier Renzi, che ha lanciato l'idea di servizio civile universale. Già c'è un percorso di questo tipo, di questa dimensione sul livello globale, che appunto è il servizio di volontario europeo. Noi stiamo soltanto nulla di più che promuoverlo e dargli un impatto, una forza molto, molto forte. Siamo abbastanza contenti dei risultati che stiamo avendo. Non solo volontariato, ma si parlerà di impresa, si parlerà di sviluppo, lo si farà soprattutto nella mattinata dell'8 maggio. Ci saranno, oltre a Giacomo D'Arrigo, Luigi Bobba, sottosegretario alla gioventù, ci sarà Mauceri, capo di Dipartimento Gioventù e Servizio Civile Nazionale, ci sarà Antonio Tajani, vicepresidente vicario del Parlamento Europeo, Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, Riccardo Luna, Italian Digital Champions. Insomma, tante belle teste per ascoltare, giovani teste per attivare un circolo virtuoso. Grazie Giacomo, buona festa dell'Europa. Grazie Federico, a te, grazie a chi ci ascolta, e appuntamento con chiunque voglia seguire questo appuntamento, non soltanto a Roma ma anche sui nostri social, Facebook e Twitter. Faremo la diretta e quindi ci sarà la possibilità anche per chi non è presente con noi di comunque seguire i lavori. Agenziagiovani.it, come sempre, il sito internet di riferimento. Ciao e buon sabato. Ciao ciao. Europost-it. Premio europeo per l'innovazione sociale. Ha preso il via a Danzica in Polonia la terza edizione del Premio europeo per l'innovazione sociale, che intende premiare con una sovvenzione di 50.000 euro le idee imprenditoriali più innovative, capaci di valorizzare il potenziale dell'innovazione sociale per affrontare le principali sfide dei nostri tempi. Il tema chiave del concorso di quest'anno è Nuovi modi per crescere e punta a far emergere idee e progetti che indichino modelli di crescita, generatori non solo di valore finanziario, ma anche di progresso sociale per i cittadini, le amministrazioni e le imprese. Il concorso è aperto alle persone fisiche e giuridiche dei paesi dell'Unione Europea e dei paesi associati al programma Horizon 2020. Le candidature devono essere presentate entro l'8 maggio 2015. Per informazioni, visitate il sito ec.europa.eu/growth/industry e cercate Social Innovation nella sezione Innovation Policy. Era il 2004 quando l'UNESCO ha lanciato l'idea, l'iniziativa della coalizione europea delle città contro il razzismo. Da pochi giorni Bologna guida la coalizione europea delle città contro il razzismo. La HECAR a Liegi è stato eletto presidente del consigliere comunale Benedetto Zacchiroli, a cui diamo il benvenuto qui all'Altra Europa. Ciao Benedetto. Ciao Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi stiamo parlando molto di istituzioni e cerchiamo di spiegare nel concreto che cosa rappresenta intanto questa tua nomina e soprattutto questa coalizione, al di là della formalità, cosa fate, come agite? Allora, come tu hai ben detto, nasciamo nel 2004 su iniziativa dell'UNESCO insieme al comune di Norimberga, che è capitale europea dei diritti umani. Insomma, il processo di Norimberga non è che i diritti umani li abbia rispettati all'epoca, ma diversamente, ma comunque si è messo a processare la storia, sì, e a cercare di dare un punto iniziale più che finale. E da lì, andando avanti, si sono accorti sia l'UNESCO che molti comuni, tra cui Bologna, che è comunque una delle prime firmatarie, che i comuni, le città in Europa possono fare tantissimo nei loro regolamenti, nel loro stipulare contratti come pubblica amministrazione contro razzismo, xenofobia e discriminazioni in genere. Pensiamo all'omofobia, pensiamo a tante altre problematiche, l'islamofobia per esempio, e quindi c'è stata l'intenzione di costruire un'autostrada informatica e informativa tra queste città, che oggi sono 125 circa, in cui ci si scambiano le cosiddette buone pratiche, ci si scambiano i regolamenti e si dice come si riesce a migliorare per costruire le città che sono comunque l'istituzione più vicina al cittadino, che riescono a volte anche a prescindere dalle norme nazionali, che sono diverse purtroppo ancora in Europa, e quindi ad aumentare delle città che si vogliono dire più accoglienti nei confronti della diversità, vedendola come ricchezza e non come impedimento a costruire comunità coese, belle e interessanti. Eccar.info è il sito, quindi una piattaforma anche online dove, appunto, come ci sta spiegando Benedetto, condividere buone pratiche, cercare di fare fronte comune con attività, progetti simili, progetti sperimentati, progetti che possono diventare spunto per attività simili in altre città. È complicato dal punto di vista di chi amministra un comune, una città oggi, parlare di razzismo? È complesso, è molto complesso, perché, lo dico da amministratore, i cittadini europei sono convinti, e fanno bene ad esserlo, perché sono la maggior parte, che di razzismo nel nostro continente e nell'Unione Europea non se ne debba parlare più, perché noi siamo tutti bravi, buoni, eccetera. Quindi è molto complesso, soprattutto per gli amministratori che derivano da un voto cittadino, andare a parlare di queste problematiche che invece ci sono. Pensiamo a tutta la problematica rom e all'accoglienza della popolazione rom, che cosa vuole dire oggi soprattutto in Italia o in Spagna o in Francia o nei paesi dell'est europeo. Sono tutte cose che sono davvero difficili da raccontare, ma che però possono essere migliorate insieme. Questa è l'altra grande funzione di Eccar, cioè dire a quei 125 sindaci, poi spero che aumentino, che non sono da soli, che si può dire, tant'è che uno sforzo della nuova presidenza, che a me mi ha dato l'onore di rivestire, anche quello di provare a uscire dai comuni. I nostri incontri vengono fatti trimestralmente nelle varie città europee membre della coalizione, e di solito nascono e muoiono dentro i comuni. Sono i tecnici che si riuniscono, che studiano regolamenti, che si scambiano informazioni. Il problema è dire usciamo di qui, incontriamo i sindaci, ma incontriamo la popolazione. Questo è sicuramente un ulteriore sforzo che bisogna fare. Il mio primo gesto da presidente è stato incontrare il papà di un ragazzo ucciso a Liegi, perché l'elezione è stata a Liegi, ucciso a Liegi 3 anni fa, un delitto omofobico, un ragazzo di 32 anni che è stato ucciso proprio perché è omosessuale, e quindi provare a dire la presidenza, queste 125 città si uniscono attorno a questo papà, i cittadini, i giornali belgi sono rimasti molto impressionati da questo gesto, e penso che questa cosa debba andare avanti in questo modo, cioè il far capire ai cittadini che queste coalizioni non sono solo dei momenti burocratici, ma sono delle città che insieme vogliono dire qualcosa. Pensa poi che l'UNESCO ha fatto in modo che siano nate coalizioni contro il razzismo, xenofobia e discriminazioni in tutti gli altri continenti, per cui c'è la coalizione canadese, c'è quella nordamericana, quella sudamericana, quella asiatica, quella africana, e una volta l'anno la coalizione globale si ritrova con i suoi presidenti sotto l'egida UNESCO, di solito a Parigi, e si fa il punto. Ed è molto interessante quando io incontro il mio omologo africano, perché sappiamo benissimo quali possono essere i discorsi tra i due. In più c'è questo dato: le città, a differenza degli stati, hanno la possibilità di muoversi in maniera molto più velocemente e soprattutto sono il primo sportello. Mi viene in mente quando c'è stata la candidatura e poi i vari membri del Consiglio Direttivo hanno discusso chi eleggere, sì. Il collega di Monaco di Baviera, che è un altro consigliere comunale, lui ha detto: se io penso che voi a Bologna l'ultima settimana avete accolto 700 immigrati che arrivavano dagli sbarchi, se io tentassi di fare questa cosa a Monaco di Baviera, per me sarebbe una debacle politica il dire ai monegaschi: ragazzi, accogliamo 700 persone, voi siete in prima linea, e questo fa capire che lo sforzo è sì delle nazioni, quando Renzi prende, va in Europa e dice ragazzi il problema europeo è vero, ma poi alla fine quelli che sbarcano non è che stanno lì sulle coste, alla fine giustamente arrivano e vengono divisi e suddivisi nelle città, e quindi c'è questo impegno anche ad essere il primo sportello per le persone che arrivano, provare ad essere più accoglienti nelle ristrettezze di bilancio, in una crisi globale che stringe. Tutto il resto non è facile, ma è assolutamente possibile, ed è un dovere che noi abbiamo per stare al passo con la migliore storia del nostro continente, se no non serve a niente. E la collaborazione in questo caso può veramente giocare un ruolo fondamentale, e questo è quello che vuole Eccar. Eccar.info, grazie a Benedetto Zacchiroli, neopresidente della coalizione europea delle città contro il razzismo. Ciao Benedetto, buon lavoro. Buona giornata. Buona giornata a tutti, ciao. Un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Your first Eures job. Your first Eures job è in cerca di 200 giovani da inserire in posti di impiego e tirocinio situati in un paese dell'Unione Europea diverso da quello di residenza. Your First Eures Job è un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea per sostenere la mobilità professionale dei giovani tra i 18 e i 30 anni. Il progetto prevede un sostegno economico per coprire le spese di viaggio, per il colloquio nelle aziende all'estero e, in caso di assunzione, prevede anche la copertura delle spese di trasferimento. Per i giovani di nazionalità italiana sono al momento disponibili offerte in Spagna e Portogallo per la durata di 6 mesi nel settore turistico e alberghiero. Per informazioni più dettagliate visitate il sito yourfirsteuresjob.gr/it. L'altra Europa. Parlato dell'Europa delle città, l'Europa delle città contro il razzismo, continuiamo a parlare di Europa, città e contaminazioni strane, contaminazioni particolari, in questo caso contaminazioni artistiche. Ci piace, no? Narrare anche l'Europa dal punto di vista dell'arte, della creatività. Il progetto di cui andiamo a parlare adesso è un progetto poco radiofonico, perché parliamo di fotografie e di disegni, ma è assolutamente dirompente per la sua originalità e la sua bellezza. Si chiama In Between ed è l'incontro tra fotografie scattate per le strade di Berlino e illustrazioni che sono state poi realizzate su queste foto. Un progetto che nasce dalla mente di due artisti, Gabriele Benefico e Claudia Dalò, artisti entrambi di Taranto e trapiantati a Berlino. Con noi c'è Claudia Dalò. Ciao Claudia. Ciao, ciao. Allora, non vi piaceva abbastanza Berlino che avete sentito il bisogno di colorarla, di ridisegnarla, di reinterpretarla? No, assolutamente, anzi in realtà il progetto è partito quando ancora eravamo nella nostra città di origine, Taranto. Sì. E abbiamo sempre avuto, come dire, la voglia, il desiderio di semplicemente non è soltanto sovrapporre disegni sulle foto. Certo. Lo intendiamo come sottrarre il velo della realtà e mostrare un nuovo punto di vista, scoprire una realtà nascosta, guardarla con occhi diversi. E in particolare, ovviamente, parlando del progetto su Berlino, questo è andato di pari passo con la nostra scoperta della città. Certo, c'è un articolo molto bello che attacca dicendo sogno e realtà. Ecco, le vostre immagini sono la realtà o sono un sogno? Perché è veramente una contaminazione che stupisce, perché voi fate fotografie ad angoli della città che hanno qualcosa da dirvi, qualcosa da raccontarvi, e dopo ci andate a raccontare una storia sopra con queste illustrazioni. Esatto, diciamo che i compiti sono teoricamente ben divisi tra me e Gabriele, nel senso che io sono quella che scatta la foto della realtà, quindi io scatto in realtà, scatto quello che vedo. sì. Ovviamente quello che mi piace, quello che penso possa essere adatto alle illustrazioni di Gabriele, e Gabriele invece fa la sua parte fantasiosa, ecco, se così vogliamo dire, perché insomma aggiunge questi colori, questi personaggi inventati per rendere un po' meno noiosa, ecco, un po' meno noiosa la quotidianità, ecco, mi piace dire. Mm-hmm. È un'idea questa nata per gioco, per unire comunque le nostre due passioni, per fare qualcosa di creativo ed originale allo stesso tempo, però farlo insieme. Ed è come se fosse una jam session, insomma, dove ognuno di noi improvvisa un po', creando qualcosa di nuovo. Mm-hmm. Come mai siete a Berlino? Allora, perché Berlino? Prima di tutto perché secondo noi Berlino rappresenta più di altre città la capitale d'arte europea. Sì. E poi perché è una città che ci ha sempre affascinati per la sua storia, per il melting pot culturale che la caratterizza, e perché comunque qui si rivela molto più forte un certo tipo di linguaggio artistico, più che in altri posti ovviamente. La street art in particolare, essendo capace di dare a chi la fa, insomma, grande libertà di espressione, qui è molto molto evidente per le strade. Lo è anche in altre città ovviamente, ma qui abbiamo avuto il modo di vedere proprio come si crea proprio il processo, quanto sia contaminata la città di questi disegni, comunque di questi. Lo stesso muro, l'Inside Gallery, è totalmente pieno di illustrazioni di vari artisti, quindi questa la dice lunga, insomma, sulla città. Certo, mi chiedevo infatti se questo progetto, no, in between questa contaminazione, termine che stiamo, forse ne stiamo anche abusando, però credo sia la cosa che meglio renda l'idea, faccia di Berlino una città come ogni altra città europea. Può essere veramente un linguaggio comune al di là di Berlino? Il lavoro che voi fate può essere fatto su qualsiasi città? Sì, assolutamente sì. Infatti, ripeto quello che ho detto prima, ecco, ci tengo a sottolinearlo, anzi, il fatto che il progetto sia partito facendo, almeno da parte mia, delle fotografie e da parte di Gabriele delle illustrazioni da Taranto, però, quindi noi i primi nostri lavori sono partiti da Taranto, quindi foto di Taranto, processo fantasioso su Taranto. Poi dopo aver fatto un viaggio a Parigi, ho avuto anche questa ispirazione, diciamo, quindi ho inserito nel lavoro di In Between anche delle foto di Parigi. E poi una volta arrivati qui, insomma, abbiamo scoperto, come dicevo prima, la città, ecco, anche grazie a In Between, quindi abbiamo aggiunto anche Berlino. Però insomma sì, è un progetto che noi possiamo assolutamente effettuare su qualsiasi città, anzi, però ci piacerebbe. Berlino Cacepepe magazine.com è il sito dove potete leggere sia l'intervista a Gabriele e Claudia e soprattutto vedere alcune di queste opere. Claudia, ti chiedo uno sforzo radiofonico, ci descrivi l'opera secondo te più significativa, quella che più ti piace o a cui sei più affezionata? Vediamo, allora, in realtà noi siamo è un po' ovvio forse dirlo, ma in realtà noi siamo affezionati a tutti i nostri lavori, cioè a tutte le nostre foto. Quella che forse di più ci piace, a cui ci sentiamo un po' legati anche per il luogo in cui l'abbiamo scattata, è una foto fatta dalla razza di un posto che qui a Berlino si chiama Klunkerkranich, il nome è un po' tedesco. Sì. Insomma, da questa terrazza c'è una semplice vista di palazzi, da dove si intravede l'antenna della televisione di Berlino. E nulla, siamo legati a questa immagine semplicemente perché abbiamo passato quel giorno una bella serata, era un bellissimo posto e insomma niente per questo. Okay. Però insomma, ecco, ci tengo a sottolineare, come dicevo prima, siamo legati a tutte le nostre foto, in particolare ovviamente a le prime, insomma, quelle di Taranto, questo è inutile dirlo, insomma. Sì, sì. E comunque, appunto, caricheremo sui nostri social un po' di queste immagini, però vi ricordo Berlino Cacepepe magazine.com, oppure non so, c'è un sito dedicato al progetto? Esatto, per quanto mi riguarda, ecco, potete trovare tutte le foto del lavoro sul mio sito www.claudiadalo.com, sì, senza accenti apostrofi, e nella sezione progetti c'è, cioè, proprio In Between, oppure sulla pagina Facebook di Gabriele Benefico Art. perfetto, insomma sono le coordinate, le troverete anche sui nostri social, da lì potete vedere in between, uno sguardo diverso su una città, uno sguardo diverso su Berlino. Grazie Claudia, complimenti. Grazie mille. Ciao, buon sabato, ciao ciao. Ciao, grazie. Europost-it. iCoach, la app per smettere di fumare. La Commissione Europea ha lanciato un'app gratuita per aiutare chi vuole smettere di fumare. Si chiama iCoach ed è nata nell'ambito della campagna Gli ex fumatori sono inarrestabili, lanciata dall'Unione Europea per la prima volta nel 2011 e giunta alla sua quinta edizione. La nuova versione 2015 è disponibile nelle 23 lingue dei 28 Paesi membri, sia online che come app per dispositivi Apple e Android, ed è perfezionata e ancora più efficace. Tra le funzioni disponibili, l'app lancia alcune sfide, come ad esempio provare a posporre la migliore sigaretta del giorno per 10 volte per 10 minuti, oppure lasciare le sigarette a casa quando si ha bisogno di correre per una breve commissione, o ancora tenere traccia di quante sigarette si fumano al giorno. L'applicazione iCoach è scaricabile gratuitamente in tutti gli store online, oppure reperibile sul sito exsmokers.eu. Un'app della Commissione Europea per smettere di fumare, anche questi sono gli Euro Post-it che vi ricordo potete ritrovare sul nostro sito radio24.it, andate nella pagina dell'Altra Europa, da lì potete o scaricarvi la puntata oppure nella sezione contenuti extra trovare tutti i link dei post. Ringrazio tutta la squadra, Claudia Schiattone oggi in assistenza, Peter Bescapè che ha giocato con i tasti, Miriam Righini e Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. L'appuntamento come sempre a sabato prossimo, sarà la festa dell'Europa, saremo in diretta con tanti avvenimenti, insomma sarà il nostro modo per festeggiare il 9 maggio. Ancora buon sabato, ancora ciao da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.